Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Scannasurice di Enzo Moscato, regia Carlo Cerciello con Imma Villa, al Teatro Vascello a Roma dal 20 al 25 ottobre 2020. Acustica sulla tre cosa non c'è sono rimasta. I vogeli, a memoria e a magia. Pensavate che solo loro ci potevano salvare, che solo loro potevano evitare le tarme a una frontalina, o peggio di cadere seppelliti in bocca al libro, alla guisa di mummia Alessandrina. Ma intanto, ecco. La solita fravetta di San Pietro, o solito scavamenti di Pompeia, tutto sotto sopra, nessuna cosa pizza sua. E che sotto una, e ti imbruca sì, e ti riesci a dare, a fatate, mantienimi in mano, tu a ma forza. Sturi, ma capito combinato, castanotte, capito fatto il balletto, e festi a fronte di mole, sì, E perché proprio in da camera di età mi scusate? Non siete stati voi non ne sapete niente. E chi sono state allora? Le anime notturne? Gli spiriti dell'oltretomba? Oppure io? Va a essere puro. Tanti comprici. A sera prima sci. Ma cominciò con me ci bacca. Vina sotto, vina coppa. E poi la mattina quando mi ritiro non mi ricordo più niente. Niente più. I frumenti sono sbolliti. E vanno chiedendo chi è stato l'autore e sta trincea, che buffa, che l'hanno nominato come si dice, a porta puttana. Guai a farti sorprendere una volta da qualcuno in una tua debolezza privata. Subito ti mettono un piede, subito trovano un modo per metterti alla berlina. Sti fottienti si hanno fatto fuori tutto questo. Mangano suzzo, me l'hanno lasciato, manco uno. Secondo me questi giovani un giorno cadranno nell'alcolismo. Mo sente scendere. Sì signore, mo sente scendere. Mo sente proprio scendere. Diamennero palazzo, ammennala, ammennala, ammennala. Tu diamennero palazzo, ammennala. Sì, capita ammennala. Vi dovete impiccare, dovete penzolare dalle forche. Come del resto tutti, non solo voi in questa città. Si devono rinnovare i fasti di Piazza Mercato quando mettevano tutto a piso con mie panne e mulletta. Re, regine, salti in banco, governatore, cuoco, monaco e pure andrai, tutti nata voto in piso con me Piazza Mercato. Voglio vorrei. E a così che le povere burratine di Svevia e Luisella San Felice saranno finalmente riscattati. E la loro ombra non ballonzolerà più sola appesa alla campana del campanario del Carmine e non andrà più raminga di fondo in fondo, di bottega in bottega a chiedere per pietà che gli sciolgano il cappio. Miserante, n'ha messa in suffragio, pallaggerio di loro. Saranno in buona compagnia, col popolo tutto. Gli terrete la mano, li consolerete, li asciugherete pianto con mie picciorelle. Gli è dovuto. Dopotutto che il re teneva appena 14 anni quando ci rettero. E la creatura di donna Luisella. Manco 2 giorni quando l'affogarono nella tinozza dei panni del parto. Lo coraggio barbaro. Aspetta che ti chiami. Ma quando si sono fatti spruciti questi suri, cioè? È incredibile la superbia, l'albagia, il tutto mi è dovuto, questa ragazza è una. E perché poi? Perché loro sono una razza. Il signore, una razza sporca, fudente, abietta, ma una razza. Una razza unica e combatta, solidale nella sua fede. Ma lo dicono che si sono spostato. E da quando è successo il boom, boom, boom, mi tremola tutto. Sono partito a rocchio, a milionesimi di milioni, e hanno emigrato dal sud al nord. Si capisce, dal sud al nord, rispettando il circondario. E stando nei confini, no? E quelli non cambiano di città. E perché volessero fare? Qua si possono divertire. Da nessuna parte come qua si trovano tanti gradini, tanti scesesce sull'elo, tanti palazzi a spuntatori che gli facilitano il trasloco. O a dofui si vede un'altra volta il boom, boom, boom, il tremola tutto. No. Sì, sì, si sono trasferiti al nord. A Vomero, dicono, a Pusilco, e Camaldra, sono nobili, adesso ci sta più aria fresca. Però io voglio sapere come mai che in casa mia ci stanno sempre, eh? Come mai che fanno ancora da padroni? E che sono gli studenti, ci danno confidenza. Io no, io no, io sto sempre sulle mie. Io dico, chi è quello? Nessuno compromesso. Ma loro, c'ha stipendiamo un locale, un sicone di sigarette, un laccio di scarpe, una raschitella, tanti chili, si mangiano tutte cose. E io mi ha preso più superbi, più protervi, più altezzosi che mai. E questo perché? Perché gli studenti sono razzisti. Questi sono più razzisti, e loro, razzista e razzista, fanno tutt'uno, ed è che spiegate che la carità canzone, che all'amma che è onesto, sta sempre uno. Ma mo se ne stanno andando. Ma se ne stanno andando, lo movimento di mare e di monti l'ha sbucato il sangue pure a loro. Il sangue, boh, chi lo può che i sangue freddi che tengono? Chi lo può che i parentemi in sangue che tengono in comune con le anguille che capitano? Sì, sì, se ne stanno andando, lentamente, piano piano, tiro tutto, bottanchi, ma se ne stanno andando, se stanno autoevacuando, se sono finalmente convinti. Però, per i rifornimenti giornalieri fanno ancora capo a queste zone. Si capisce, hanno bisogno di acclimatarsi. Forse tutti i miei che li partono, non gli piace, non li ha gustato tanto, e allora una o due volte al giorno un'apparizione su queste scene è rara che ci manca. Ma non vengono a piedi, no, li sono fracomodi, oh no, qualche munata è buono, tutto pronto, tata. Ci stanno vomere, si pigliano la funicolare, andate e ritorno. Ci vengono nella ferrovia, o trammo qualche mezzo di fortuna, oppure si arrangiano in da poco vecchia carrozzella. Ci mettono 3-1, che stiamo per. Però le vivande che prelevano qua già rusamente, Gerusalemme. Avevi di luogo, come a dire con cupidigio, con cupidigità, va, tra un piccolo, un vascio, una settella, arrivano lo stesso un po' ammazzaruto, ma non è tutto freddo. Teresa? Teresa? Ma che caspita stai facendo? Teresa? Vuoi la ricciarella? Che fai loca mamma? Vieni, vieni, che quella stronza mi sciare a leggi da fuori. Vieni, vieni, non ci sta! Teresa! Ma... che si mette scurna, è timida. Non è per niente scrucchiglione con malate. A mamma... un poco di buono. Scombarette tempo fa durante il boom, boom, boom. E il padre... anzi, i padri che teneva, 3, perirono tutti quanti vicino al Vica Press, nel retrobottega del caffè, la signorina Rosine, e il giorno, l'ufficio igienico, impressionato dalla chiusura d'oltranza del caffè, la signorina, che invece doveva rimanere aperto per esigenze, per bisogni, facendo la terribile e orrorifica scoperta, ha scelto proprio il giornale, a caratteri così, sola e anziana signorina mette in atto forse promiscuo suicidio biologico insieme a 20 topi. Com'era bella signorina Rosina, che bella donna che era, e che gentil donna. Teneva un'eva, coppa faccia, grosso quando era un cicciolo, naturale, che però lei si ritoccava la matita per fare finta. E poi due schiocchi russi qua e qua, che lei si faceva da poveri cacao e avellutina Bertelli. E non piacete, un po' mio sacco qua, ma mi pareva Don Raffaello, a bucone sacrala, tieni come te che si smuoveva. E mi ricordo che hai creatura, quando ancora si vede casare in tangurunata, a stava a guardare, ore e ore, incantate fuori la bottega, mentre si macinava un caffè. E taluni potessi me ne cacciavo, scucciato, quel mali modo, credendo si sfuttuto. Uè, uè, io! Diceva, ma che ti senti un modo, loco? Come pazzia, zia, da, da, faccio lo spazio! Il mio nipote, invece, quando l'utero era dritto, si metteva a cantare. spontaneamente a cantare, facendo a gioia le creature e di tutti i budgar. Cantava, cantava, con quella voce paravisca che mi ricorda ancora. Mi chiamano, che voce che teneva la signorina Rosina, la voce a sua, asciva, e in capo dica, insieme a Dorru Caffè, e se lo salivo per tutte le finestre, i balconi, il loggio, i palazzi, la via ancurunata, e poi da là se ne scendeva per via Medina, piazza Bossa, facendo struscio, struscio, tutto rettifili a zecca, fermandosi soltanto mezzo quarto palazzo, esattamente Goppe e Grara rubare Floris, che era un'altra torrefazione di proprietà di Don Petrucci, un fratello della signorina, il quale, sentendo arrivare la voce della sorella, scuoteva la testa da uomo di mondo e ai clienti diceva: non ve mettete paura, non ve mettete paura, che questa voce Rosina, la più bella voce del reame. Povera signorina Rosina, povera signorina Rosina. La trovarono esanima, stesa a terra, miesa una muina in sacchetta a perdere, traboccante, quell'aro nauseante contenuto per tutte le trombotteche di qua e di là, e contornata, quasi circonfusa, dalla ruota dei corpi di 12 topi, tra cui c'erano pure i tre padri di Teresa, una coroncina, 12 stornatelle, come quelle che appaiono alle spalle della Madonna di un'Immacolata, intatta. Sia lei sia loro, neanche un graffio, né madonna, cosa c'è, qualche segno di litigi, di combattimento dall'uno o dall'altra parte? Nulla, se ne erano voluto andare così, in perfetto pacifico accordo, come in perfetto pacifico e volontario accordo avevano convinciuto insieme con tanti altri. Europa, i carabinieri, i pompieri, la finanza, la guardiareggio, ma chi sapeva tutto che la gente? Allora, insomma, il comune, lo Stato, requisirono il locale delle vittime per alcune famiglie di sfollati del precedente boom boom boom, i quali però rifiutarono per rispetto della morte e dei 12 animalucci volontari suicidi. Poi lo adibirono a deposito per le bollette non ancora pagate della luce, ma proprio un mese e tra rinunciò, perché scoprettere che l'addebito, l'importo, risultava illeggibile, non cancellato, rosicchiato, ma semplicemente illeggibile. E perciò non so che gente che non mese non pagava la luce, rindeva, usufruirono della luce a tempo pieno senza pagare niente. E poi alla fine abbandonarono, sono stati tetto, lo lasciarono aperto a tutti i venti, a tutti quelli che ci fossero venuti alloggiare. Mo chi va, chi viene, chi entra, chi esce. Attualmente c'è sta casa, una colonia di servi e camerieri provenienti dall'Africa. Oh, gente di quanto, carità, gente che si fanno i fatti suoi, però Gesù mio. Che burdello, che casino, che babele. Un porto di mare. Ecco, un porto di mare nero e ha demandato a casa la signorina Rosina. Una caspa, marrucchina, rabbissina, egiziana, in mezzo a pochi bianchi. Casa sono già scusata. Perché voi non ci... Ah no? Io invece conosco molti che lo fanno. Col curaro. Rindano vacile l'acqua. Col curaro sciolto rindano vacile l'acqua. Che volete? Siamo troppi. Si massaio. Non è possibile altro metodo scientifico. Altra più indolore soluzione. Questa soluzione però deve essere dosata, calibrata. A tanto volume di acqua, tanto volume di curaro, Ma non sa da sbagliare? No. Ah, sennò diventa un'altra cosa. Un espediente estraneo. Maledissima per bestia. Per animale. Ma no per noi. Che siamo in troppi. Si massaio. Cosa? Qua in inferno? Sì. Ma è pure una sardina. Paraviso ristracciuno all'ingrosso cani, pietre, creature. Facite male a chiagnere per noi. A ciascuno dunque il suo. Una doppa acqua e una pizza che balena. Una goccia può servire a 10.000 frecce. Mezza goccia fatta scendere sapiente, larga, lenta, nella pubblica cisterna, può far dormire per sempre più nobile quartiere. Quartiere se spagnoles e capemonda vagaria stella. Si capisce, nella pubblica cisterna. Se qualcuno va pazzia, se New York senza data burra spultisti fila, alleggerista cifra. Cosa? C'è stancore che dice quante songa, a te sopportano, oh, sono passate, non cantano, abbandonano. No, qua gelano, qua restano indietro, gelano e muoiono qua, tra le rotaie. Ed è giusto. Giustissimo, non ci sta niente a fa. O curare e non vacillare acqua. Questa è la soluzione. Quella che però in guieta è la possibilità di errore, l'oscillazione di un millesimo, di un millesimo, di un millesimo. La mano che trema nel dosaggio, non sospira, un piccolo sussulto. E allora ecco qua sto risultato. Chi so? Stongarin, stongafora, non moro, no. Ma neppure campo come prima. A viste, mani, orecchie, tutto cose se ne chiudo. Eppure a voce, ancora un poco e poi sommergerà, affonderà purezza in un poco di curaro, un pizzico soltanto, con mia sputazza reto franco bollo, l'imma capì, l'imma sapè casimma troppo assai, eppure reto a che sta bene, qualcosa ancora si nasconde, ancora si camuffa, ancora non avessi pubblici poteri, e la lucerella opaca, una cataratta lacerata, una linea, dei puntini, qualcosa che a tempo se ne fuio, qualcosa che a me tira faccio un coppo, là, e mi costringe ancora a cercare isso. O solo. E non lo vedo mai. Abitano a casa, sti zulusti primitivi, io mettessi da un forno, il tuo forno è cazzarillo. Ma che dicono forno, ma quale mai? Caso mai stessero meglio di una caverna. Sì signore, una caverna, rinde grotte le spavare, là a dopo primi si tenevano i pecri e porcio. E pur senza niente, io così, senza acqua, senza luce, senza gas, senza rasiere, completamente a nulla. Solo con due foglie fica innanzi a rete, simile e somiglianza con Adamo ed Eva, che chi la mene pure ele, stavano ancora i primi tempi, non potevano capire, non potevano sapere, chi lo campavano con per i cieli e l'albero, alle quali, alle scinte, non potevano nemmeno ancora comprendere una cosa. Ma chi sta sì? Chi sta tenendo comprendere? Azzo si ottenono, ruaggi alle mettere mie zavi, ruaggi alle lavavo tette a casa. E avrei allora come malluccano, come sbraitano, come si ribellano, ulimma a casa, ulimma a casa, ulimma a casa. A casa, e lo ristrarata a casa, salvo poi una volta trasuti a non avere nessun rispetto per queste sacre mura, per pareti, per supini, per fondamenti, e non so anche che si sputa in cielo, faccio ritorno a casa se non cade i fotozini. E capi ma fa? E pareti fanno giacca e giacca. E che potremmo fare? E se cade un due buco, sono diventate crepe, coraggio! E quando è buono buono, gli è stato stritto con tutto il mio zerno! Axi non raggiù, axi non agisce! A bella Ambriana, a signore Remur, a fata folletta che sta sempre a nascondere a dottini di rete matarazza, se piglia con ma maledice! E poi vuol dire, vuol fare papà! Ma questa sta viva, che la povera nonna mia... Povera nonna amica, non sia povera nanza di giudice di sé. Voi Juanna, non facete pigliare con la bella Ambriana, non lo facete arrangiare. E perciò non sgarrubate niente, non scarpinate, non buttate in terra, andate con in faccia e mura. E la prima cosa che avete fatto a mattina quando questo sito, mandate la preghiera in colpa a voi. Cagella sa ancora il pensiero, e va benedice tutti i passi che ha. Povera nonna amica, non sia povera nanza di... Non sia mai povera, noi creatori ci venivano capraia che ammazza per l'ambrione. La sfottono un po', questa ci intende già cantare. Vicciare toppo, tieno un culo battaglio, vicciare toppo, tieno un culo zampiglio. Insomma, ci mi dare il creatore, no? E per casa nonna ci sentiva, si scatenava in grudelli cieli, e pioggia, e fulmini, era una pacca, una morsa, mazzata, casticamente, che faccio andare con mia tucca, a vasellizzola, e mattunella, a chiedere perdono, a chiedere mercè. Altri tempi. Ad agenda, altri rispetti. Poi fine so che riesco a raffuno, per non parlare formicole e mosche, non ami, non è c'è. No, no, perché diceva che quelli erano messaggeri, portamasciari, ambasciatori di lei, Rabella Ambriana. E come infatti capitava che c'era un animale, o io non ho preso la miseria più nera, e malati più strano che ci chiudevano in cuore come se fossimo fatti un omicidio. Se poi invece non ne c'erano, ma la stavamo facendole circolare veramente per casa, senza ci mettere a paura, è logico, come pur senza c'era eccessiva confidenza. Uè, tu diceva buono, tutto ci andava bene. Che saggio, che la settimana, oramara, si scudava con i assicuri. Oh, non mi arriva il pizzetto di bagno, ti lo passava e noi mangiavamo, e poi papavamo a quando bene bene. Ho un assunto sotto il grare, ci facevo un saltacunto, un copporebbe di Natale, e noi ci prenotavamo per chi le pasche. O padrone da casa, scendono un palazzo, pigliavano un sciuglio a mazza, si spazzava una cosa, e per 7-8 mesi non venivi giù a servire le opzioni, insomma tutto bene, ma proprio tutto bene. Ecco, per poi, o sabato, pigliavamo pure la strazione, ambe eterne, copstorne, come ricapitava. Certo, riconosco che non era tanto comodo accampato tu quando in una stanza sola e con tutto quell'animale clandestino e coccovato pure maligno e faccia tosto. Una mattina in coppa c'è una pietra zoppicola, su un paio in culo a sua ragazza, e a me si rusucano tutti i quaderni e scuole con tutta la gente. Nato poi, dimmi guerra, bizza e baffa, rintava per strada correndo, facendo saltare tutto l'oscuramento. Che ci volevamo fare? Però, erano pure aggraziate, soprattutto quando sotto gli occhi nostri facevano le imprese magiche, le cose più strabilianti. Che saccia, a nonna, una mozzarella a mano, sbattevo per terra, cantando... Pizzi, pizzi, trangule, la morte da Sandrangule, Sandrangule, pipì, e Sarracina facevo pane, tutte le mosche son mangiavano a poca volta, ballerì, ballerò, chi è l'ultimo, gli esce fuori, Lucia, Dino, Vizio, Lucia, Tegnolino. E loro si susevano un coppia zampatella, tenendosi che curella in bocca l'uno con l'altro, e abballavano, se facevano certi pizzi e gira e balla esagerata. Questo cos'era? Magia domestica, miracolo quotidiano, io che prestigio, caso lui che non dà una fede non crede. Ehi, a casa non è sulle prete, a casa è in dono che è divinità, calcio è mistero. E guai a chi non ci crede, guai a chi vuol fare furba, guai a chi si sente e fa finta di non sentire, e guai a chi si vede, è pazzo affogato. Thank you. diretto l'indirizzo. Salita Concordia 37, terzo piano, il primo due volte a stamana qua. Raccomandando pure i compressi però, è tutto in mano. Perché il prezzo d'affitto lo quartino era così basso, perché li tempo, quasi per niente. Ma chissà già quanti aspiranti affittuari inquilini, chissà già quanti sfrattati lo 4 maggio e 8 settembre fossero trovati per dentro vico, sotto palazzo, e magari già sistemati per trombare le scale. Gesù parlando, ci faceva quasi morire anche lì faccia i tozzi le panne, triste, arcigni, zemo con tutti ci hanno cruciato loro appresso, zemo con i figli, con i entri, che cainati, che ignori che era punto. Peggiori i profughi di guerra richiamati re di opio prigionieri lo ne gusto accompagnava andando. A Sanzara la ricetta pubblica, con prezzi dell'affitto lo quartino, oltre che una miseria, non prevedeva pure nessuna persona, né come anticipo né come ceditura. Perché, per la prima cosa, non essendo stata la casa occupata da qualcheduno da più di 15 anni, non si sapeva a chi c'era sta ceditura per noi paesi. E per la seconda, che fossero direttamente pagate, sempre che la casa le fosse piaciuta, è chiaro, sempre che le stanze fossero state a gusto loro, che fossero dunque direttamente pagate, o prima persona a entratura romesa a presa a quello corrente. E allora c'è sto tempo, no? Ma direttamente a esse però, a Sanzara, che era la fiduciaria personale della grande signora Marchese Baronessa, ma non mi ricordo che lo caspitaressa, Emma Caprese Arutolo, proprietaria in usufrutto permanente dell'intero stabile. Poi dritto i Sanzari si rimetteva grazie a loro, alla coscienza vi espuso nuviella, ma comunque in tutti i casi facendo a capire che si fosse accontentati di poco, una regalia, una mazzetta, tanto poi si fa quartina a sprigna. Ah, che non le piaceva a noi, stia roba! Buonanotte su natura! E lui giù! E lui giù, mo, veramente freschi sposi da qualche tempo, ma già con una creatura picciorella, che stava ancora rinda in fascia, è chiamata Tittinella, saputa la cosa, non si facettero ripetere ammasciate due volte. E stesso che la mattina si mettettero in cammino perché avrei sta casa nuova, che non stava la verità assai distante dal basso dove momentaneamente campavano loro. Basso situato al vicolo giardinetto numero 12 di proprietà di Alfonso Benedice, spedizioniere. Bello c'è, se mi consentite. È pure a riuso, ma troppa stretta per necessità loro. Mo che ci stava pure a picciarelle latte. Comunque, quando che la mattina si mettettero in cammino perché avrei visto quartino. Pare Gesù che a Disney era scudato il lago, che era raputo tutto il cannolo roba ravisa, chiudeva e tutti e due senza ambriella, infuso come due purpotilla. Sa facettra muro muro tutti i vicoli e vagarielli che lì parte, ruvi di sardinetta, mene non sia a salita a Concordia. Se facettero nubiezze la speranzella, nubiezze taverna venda, nubiezze trinte spagnole, cocche rarilla regalata San Mattia e alla fine una cinquantina passa a scendere la salita a Concordia, fino a quando non furono proprio sotto al palazzo nell'androne del cortile. Bello palazzone, spagnolesco, roccocò. Eppure un piezzo di giardina inda, capiva un spazio e ricurtiva la scatassia. Ma a parte questo però, una cosa che qualcuno si meravigliava in un vero fu il cane sotto palazzo, né in due giardini, né in mezzo vico, per essere tutto quella chiorma e gente che Sanzara e che voleva a casa. Ci stava proprio nessuno, il deserto. E le pareva che il palazzo e il silenzio che ci stava dentro non aspettava che a loro, solo a loro. Avrete avuto l'impressione che pure a guardaporta teneva ammasciata esclusivamente per loro. Tanto è vero che hanno appena verrete, senza ricere né chi siete né a chi volete, subito essa, pigliai e chiava in da guardione. E svelta svelta, ma un poco attigioso, a Cristiano, ma va per un coppa a loro. Sarei attannanza a loro per ci favorire l'appartamento. Gesù, che bellezza, che magnificenza, e che non era una casa, che era un castello, una fortezza degna solo di una principessa regnante, certi stanzoni che non fornevano mai, perlomeno una regina, certi balconi così larghi e lunghi che mi parevano per vedere lo compere, e due o tre cucine, con certi fucolari miezzi che fossero potuti mantenere a coppia perlomeno una trentina che a cavello ruotalettiano, e stanze un gel, filato l'uno, rintanato come per una collana, scale, scalelle, finestre, finestrelle, ripostiglie, mezzanine, stipamuri, insomma, per Dio. Vero è che Nannina, la moglie, vedendo tutto questo, si faceva arretta, spaventata da tutta quella larghezza, che lo spazio. Dato, risetta, Ma noi che non abbiamo mai fatto una casa così grossa. Noi siamo solo tre persone, magari mai fa che da Mosca in dove scuola. Dottore, invece, suo marito, più che altro, si meravigliava che una casa così grossa, così bella, fosse stata in sala affitta per così poco, per chi li quattro rucchi. E in quel paese pensai a non scherzare la zanzara. Pensai forse che quella buffone, che la sezzolina, che la cavalletta, si era pigliata gli uochi e tutti e due sposano vielle poveriere. Ma quando poi per curiosità gli è a domandare, guarda, porto il prezzo, l'affitto, lo quartino, e che allora potete punto per punto proprio quello che aveva detto la zanzara. Allora si può parte su, facendo solo un'esclamazione, dicendo: guarda, ma scusate, ma perché va così poco, ma state pazziando? E a volte porta misterioso rispondetto: e che la signora ricassaio, ma voi non voi riuscite a soltanto, e non sì o no? Basta, non va a buttare l'uomo che c'è tre stusi. A Gaspar e a casa pigliana. E che la sera stessa, quando fosse male tempo, e non tenesse altro che il re di Matarazza a trasportare un coppa a sta casa, no, dottore, che era guaglione principio, e si diceva croce era, pigliaste di quei Matarazzi e mettete coppa una carrettella. Pigliare la moglie e la figlia, e con un portalume e quattro scirogeni, saglietta scalinata, pretendendo che da quella notte stessa si pigliasse fosse di mentre in muro. Mo, non appena fu in coppa, e tuttora me ne hai un maniglione a re da porto, e mentre voi racconto, guardate, mi si fanno le pelle pizzica pizzica. Non appena fu in coppa, a cominciare uno strano balletto, come dicete voi, ma vuol dire chi come? A creatura, tittinella, che come la giritta prima stava ancora ride e fascia, tanto era picciarella, e che fino a quel momento se ne era stata buona buona e quieta, quieta come una pupatella di zucchero, a bella e buona, braccio a mamma, cominciare a strillare e a chiangere con me. E così forte, che agneva, che l'anno per dì, che mi pareva 76, una fontana. E nello stesso tempo rimanendo la faccella vetrata, addolorata, immobile, come quelle certe statuine, che si vedono in coppia e bordere e vascere in giardina, che vottano acqua e malinconia, tutte parte del cuore. Nannina, allora mamma, credendosi che quelle chiagneva perché teneva fame, subito si mette a pietra per azzucare. Ma vedendo che la creatura continua a chiagnare a cannare una pietra, si aveva affugato con tutti quei lullati che lasciava a cagliare alla rabucchella, subito si capetta, si susette. E danno a vicerello il braccio, marito, ricetto, Toto, tieni un momento a questa, sto fatto non mi pare buono, la creatura soffre, io mi vado un momento ad ospedale puntone. Mi raccomando però, non mi scendere a basso giardino che la creatura in braccio, che la si possa di peggio, può che più malata ancora, tu mi hai capito? Io vabbè, vengo qui, faccio da un attimo. E mi nonno se non usciano qua per spalla, la vetta a volte scende di scala un nonno. Tu dormo, rimasto su, poi si fa coraggio, a cominciare a connulare la creatura, e a ricevere parole roce un po' insignificante. Come poi l'uomo ne faccia fuori più per inesperienza che per cattiva volontà. Quando bella e buona in un momento nata, la creatura fornette chiagnere. E con un giorno passi in da nottata, ha cominciato a rire, e rareva come una grossa, spruzzolandosi, contorcendosi tutta quanta, facendo quasi delle smaffie di dolore con la bocca, come si coccruna, una reta essa, stesse sciugliando sotto i piedi, mezzo in manello, prende e fascia. Allora, dottore, quando qua per capatosto, per parte sua, era abbastanza evento, paura sempre su una rilla, ma non è che se si ascoltava proprio quello che l'era raccomandata a moglie. Ecco tutta la creatura in braccio, la tra parentesi continuava a ridere come in un anno, lo circolo è questo. La ravetta porta e dietro aspettava a nannina a basso giardino. Infatti si trovavano tutte e due quando tornai all'ospedale che aveva andato a mano. Logicamente, mo' nannina, con tutta la creatura in braccio, ancora infruttuta e tutta stordita, per dire che sapete che si era fatta prima. A chiappare il marito sotto, e uno ce ne ricetto, e cento ce ne cantò. E tu sì che, se tu sì che, ah, capa donna e voi, ma come ti dico, mi scendere a chiesa, passo sardine, ma e tu a così fare, allora tiene su vecchia sta creatura, allora tiene capo stomaco, ah, mi era famone che 30 anni, invece mi scusate, mi era spazzato tutte e due cosce, che lui ora in casa ieri, tutte le gran Roma municipi, ah, patate, che ciorta nera, che merata, che sfondura, che spianega, che maledizione. Insomma, tutte quelle cose che la marita e la moglie si dicono a tutte le ore, a tutti i momenti del giorno, per si dimostrare che veramente si vanno bene, no? Caso nato l'uno per cancellata. Perché se tornassero a nascere, se tornassero a pigliare, come hanno già fatto per 7 vite precedenti a questa. Basta come fu come non pure essere sta bevanda a Titinella. Quella come per incantesimo s'acquietaia. E come ti volete, se ne è tra cucca tutte e tre. Nannina annullata, la creatura mia, io marita che la dame. Proprio tutto questo tra l'allera, pigliaino subito suorme, no? Quando a notte viene una nina se scetaia sentendo una voce a fascia ma insistente rinde il orecchio che la riceva. Scettata ramma creatura, scettata ramma creatura. Ehi, e capitano, scettata ramma creatura, a creatura, a creatura, a creatura. E se chiù sentiva quella voce e chiù con tutte sa stessa se faceva papa uno contro marito. Ma quella voce continuava insistente. A creatura, a creatura. Fino a che non potendo proprio più a povera cristiana si decidette. E chi c'ha un miciariello, almeno non lui. Ma quando niente papuia la mano a fianco a essa per senza. Là, proprio là. Là, a tua prima stessa picciorella, non ci stava più niente, niente più, solo l'incavo vagante, potente l'anzore. Allora, tremando e alluccando per l'emozione, non riuscendo a trovare niente per far luce alla povera femmina, a cominciare a sbronzolare il marito, forte, forte. Toto, uscitete, Toto, uscitete. Avrei da smettere 3 euro, 3 euro, non ci riuscite neanche che lo provolone, che l'unza alla nuca, non si sciotai, strupicciando se l'occhio può suonare, lunga penna subito tutto quello che è successo. Comunque, appicciando tutti i cerozzi che tenevano, girando per tutta parte, per sotto lietto, per coppo lietto, mi zellanzolo, mi cuscina, a rindere i bustigli, fare ballatura, niente. Tutti nelle pareti scomparsi, magnate lo scuro, aiutato anche lo mammone in casa, niente, manco un vagito, un guai guai, niente. Allora, qua tutti e due, se sentette lo cuore, mancava disperazione e a cominciare a si scippò. A se vattere, a se lanzeria, a se straccia tutti i mannaguoli e nello stesso tempo tutto pareva un suono, ma un suono muto e senza scampo, come un avvilimento, una calata, un fumo mare, rinda un abisso. Quando bella e buona, lontana, a una che gli cende stanza da casa, sentette senza un rumore. La muina, come si coccoluna, se stessa la mandando e spaccando tutto quello che si trova attorno, piatto, bottiglie, bicchiere, insalatiere, mobile, tutto, a uno di tutto. Allora qua tutti e due, marito e moglie, per quanto impaurendita e con una cerogena sola, tutti e due si avviavano insieme a chi lo punta, atterrato e meravigliato, respirando appena, e fui là, che vrettera, o mistero. Che vedettero il mistero? Appoggiato mezza luce del lenzuolo antica, a rinda nutratura in un mobile del 700, mezza ravuta e mezzo no. Titinella allora ancora rinde e fascia, placidamente a dormire. E come sorvegliata, spiata a due passi, da non respira. Non respira che si sentiva pure, ma non si vede chi a niente si avvicina e si piglia in braccio, non ha di mannanna se per chi il momento è causa, è ragione, e che è l'impossibile camminare tra la creatura, come pure, e che il rumore, che la muina che avevano sentita prima, e che loro non si sapevano spiegare, perché sapevano che le stanze erano perfettamente vuote, prive di oggetti. Né sorprese per lui aiuto non erano ancora fornuto, perché? Quando ettero per chi sa Tittinella rindo tra turbi si aveva in braccio a rinde il fascio un coppio il rigiolo per ettere che una cascata di monete d'oro di marenghi luminoso come una stella rindo oscura che dottore subito si mannaia a raccogliere quindi hanno adotto qualunque spiegazione del miracolo mentre Nannina per parte sua si meravigliava più che altro lo pugnetiello inchiuso la creatura troppo inchiuso a verità per essere un gesto come no. E come infatti andare alla rapina se trovai una strignuta lo biglietto scritto con una bella calligrafia e con la chiostra nera piglio il biglietto acchiappo il biglietto l'avvicino alla serotina nel leggere. Nannina, dottore, vi prego non più tardi di adesso di lasciare subito il palazzo. Portatevi appresso pure la pizzorella, che io per parte mia ho già fatto ricassaia. Ma vi prego, non più tardi di adesso, lasciate subito il palazzo. Perché quello che è troppo vecchio sta scritto a da morire. Figuratevi se chi li ripovera li sgraziata, troppo che la terziola, che la batteria per uno, su facettero ripetere due volte della subito, immediatamente, con la creatura, una cerozza, che le capotettero fissare in una mappa terra, a rapettere la porta e se buttare le pescate. E dinda un battibaleno, una mutata ruocchio fino a basso giardino, rindo curtino sotto all'androne. E poi mezzo vica, finalmente, mezzo vica all'aria fresca. Oh! Oh! volete sapere? Voi volete proprio sapere? Non appena che fui nel luogo di salvazione, non appena che fui nell'angolo rovigra, la croce che faraccio, che salita a Concordia, che calata San Mattia, vada padrum, sono carette tutte cose. O palazzo e balcone e finestre, i porticati, i pilastri, e perfino il primo mattino lo stabile ha preso a kill, tutto cose sono carette. Manca una preda a chiudere, mi metto all'impiede, fui un attimo, un momento, e poi non ci fui altro che un buco nero e profondo, e alla linda scevra fuoco e fiamma, fuoco, fum, come un coppa di suvia, e tutti e tre si vanno a guardare lontano, con la bocca aperta ma meraviglia, come i pastori con un po' presepio, e quello che era stato si ricevono, una grazia ricevuta, un avvertimento, a numero delle scambate. Ma... Ma voi dici che queste cose me le ci mandate io? E può essere che avete ragione, perché mica tengo una carta scritta al comune a riprovare quello che vi ha raccontato. Però io te la domanda a quelli che stanno ancora in casa che li parte. Ruote ce lo domanda a loro, a così sapete se va diritto buccia o no. E soprattutto a domandare perché a salita Concordia ancora oggi ci stanno tutti i numeri di case e di palazzo. C'è sto 33, o 34, o 35, o 36, o 38, o 39, o 40, o 41, e via discorrendo. E solo 37 manca. Solo 37 non ci sta. E al posto suo, ancora oggi, trovate un grande punto interrogativo. Viatiato. E a domandateci un perché. Perché in coppo 37, qua, non si fabbrica e non si mette mano mai. O 37 fa solo spiritilla o munacella, eppure chi tiene il numero in da casa povera non si va mai cercando. Spussacata fece l'umanità, spussacata solo ci fatica, spussolato con l'ogno tenda, guarda il sullo, quel zampatella, tanto, chi si è messa a bella posta, papà dalla posta, non compri da chiappa mai, mai è formato, è corto, ma mezzo la saitella e munizia, sono pariente a buio con mannone, muovo con il suo figlio, o spiglio, o stolo girato, o papà tu mi esce fuori, e sazza di abiti da casa mia, maia, che sta maia, c'è una conferenza fra lui e me, come? Niente che è pazza, vedo le razze, papà, ma voi ci incentrate con la razza, voi non siete una razza, che resta la miscuazione, perché state sempre mica, ma che succede, qualunque cazzo è diva, mi sono qua per stare con lui, che siete tale e quale a noi, chi, addosta, mi vuole che addosta, dici da me che c'ho vado a mettere pure essa, tante chi lo volete, tante chi l'arsenica, lo faccio scompare la faccia, lo cielo oggi rimane sempre, Surici collega, un bagno nero e banchetta, e un bagno bene, frutta, e roba verde, brutta, fornicazione, guaccia, tale qua a noi, non ci manca niente, la fotografia nostra è no, amici miei, cava da decidere, o uomo o animale, a scala non si esce. Ma viene masto Gennarino Ferrara, la giovanna che chiama. E a rete caro miglio, non li uno quando una sita va a pizzare tutto quanto indiscriminatamente. E poi porta a finire, sì, a vendere, tutto a Pisa, spada a Mazzasura, attaccato con cottone, con Mennucella e Mondo Vergine, lo porta a vendere. Per coppa compra, vado questo, per Vasciandini, dice, lo porta a vendere. E poveri, poveri, quanta vecchia, quanta lurduso con Mabuia, più affamate voi, vi saccate e vi si mangia, e vi fanno a cutalette, durate il fritto, il furno, la torzione, con passa e calli, vembe. Questa è la finca da fare, questa, come credete, questa manca, o tempo è sciuscia, o tempo è fama ripera, o tempo è quando la conferenza vostra, la fruttizia vostra infame, facendo buoni o mal tempo, con il sacco. Una renza solo giù pesante, un po' che merda giù mi sopuntore, passava con carrozza, alto locato vice re marchese, quel baffo la menciù, con un ricchino orecchio, con un turbante in capo, passava con carrozza, e dopo rete a buio capra, e dopo a freva, e poi diarrea, quando erano festi e processioni tutte i giorni, quando erano in tabernacolo, a voi mettevano, né santa né maronna, a voi, signor Rogolere e Zuzim, quando è caduto per spagnolo, là in palazza cattiveria, croce, morte all'alleria, quando i signori sanglievano sempre più in coppa, sempre più un coppa, fino a toccare quel dedo pataterno, e noi scendevamo sempre più a bascia, sempre più a bascia, sempre più bocca e bocca, culo e culo, tutto unito, cantare arciule, ma con furia, insieme con furia, e mo no, mo no, e a me no. E sono da Pacunara, e sono da giù la strada, peggio e furia, capofila, assassina, io vi faccio fare la fine della razza dei giudei, che sta fine mi faccio fare, manco un occhio, manco un baffo, mandi la corva, lasciaci vivere in tuo fosso. Ricordatevi che chi di coltello dà, di coltello perisce. Voi ha ragionato voi rienda, allora su te rienda da Ferni. Puh! Ma roba fritta. Che fritta. Ma pare la Siberia. O Polo Nord. Che fritta. E a tu sono che cosa? Ho visto mi hanno lasciato tutte le porte aperte e non mi facesse meraviglia che la capigliuma che tenne o si è spezzata l'astica che camiscia a terra con sole e noi precipitammo in fumina gelate chissà tu. Sture! Esponi le tue nudità! Sture! Rimane chiove, è una bella giornata! Ma poi si vuole vento, non è colpa mia! Va a te, ne mi hai paura, rossaccio! L'hai già capita! Paura di me! Chi siete io non lo so, ma è giusto, hai ragione, mi sono una pazza ambriacuta, una strega, una fattucchiera dichiarata, domus penatesco mysterium, ombras mortuosque subispecie sibille, veni spiritus adusque litoras. Oh, sai, pure un latino, che te credi sotto toglio? Ma non ti preoccupare, no. Filtri, sbocca, adopoca, poi te non la faccio. E come potrei? Tu sei così angiolilla, a così servizievole, a così aggraziata in tutte le cose che fai. No, non ti preoccupare. No, lo te tangere. Crea tu. Un bello aglione con me a te, con questo occhio, questi spalle che tieno, questi in mano che mi pare una tanaglia. Io voglio riuscire uno con me a me. Esaurimento, a te guardate, non so. O giorno quando ti vega, tutto in mattina. O giorno per me, viene solo come fa soffrire. Perché a notte no. A notte non posso pensare a te. A notte io divento una rosa con tutto quanto. Per chi mi vuole veramente e per chi mi vuole solo per si ingannare. No, a notte non posso pensare a te. Per me l'ombra non è sentimento, nostalgia. Per me l'ombra è un affare, un business, su quattrini, che vuoi fare? Per me era destina. Ma tu però mi spostare nel vado, o può fare, non può fare, non fumi, non bevi, non mietro, non levo, aglio, aglio! Arrivo la passata è persa, anima mia, è bello, si dice, solo quello che va nel cavo della mano, tutto il resto datelo ai cani. Però un giorno mi hai detto, se voi foste proprio una donna, io... E mi hai messo una mano proprio qua, sopra il collo. E allora? E adesso? O domani mattina? Ci vuoi pensare ancora? Ti senti ancora insicuro? Vai, aspetto, aspetta. Cos'ora? E se io caso pure si smette a chiovere. Dopotutto sono sempre una bella mostra con l'ombrellino, no? Potessi pure essere abbastanza mente presentabile e seria a paese tuo. Prima un poco, un bello giorno mi presentassi con te. E che fai, non ridere? E prima un poco invece ridere. Stai sempre con sta mutria sotto, pare che hai perso pigna a cartella, chissà che potere tiene, tu pensa sempre, pensa, filosofo. E che sa fa, Lori, che sa fa? Fra su dici pulizia chiamata a casina e riepete che non fornisce la mano, una punto, l'altro spunto, che sa fa di me in me? E ma con te, creatura, mi tu fai scendere la poscia, mi fai venire l'ernia dello scoramento, e dimmi una parola rossa, e fammi un gesto calante, improvviso una sceneggiata di gelosia, difendimi dai cascamorti, dai cicci sbega, ci stanno troppo esagerati in questa casa, sposami, che fa? Amami, perfino. Perché voi non lì? Ah no? Io invece conosco una nobildonna che ha risolto tutto con l'ossavario. Sì signore, l'ossavario sarebbe un aggeggio meccanico di 3 metri per 8 con lo sfiatatoio sottoterra anziché in aria. Sì, è proprio una bella pensata. Così ogni 30-40 giorni, compatibilmente con le condizioni climatiche ed atmosferiche, se ne può far partire uno stormo. Ta-ta-ta punta, ta-ta-ta punta. Sì, è proprio brava sta nobildonna. Tanto, un'è più, un'è meno. Che fa, dice lei, urana da sta mezza via. La matematica non tiene simpatia, che il numero eliminabile, no, eliminando, sia organico o inorganico, non ce ne fotte niente agli addendi ai coefficienti. Comunque, lo savario e lo stormo è proprio una bella avanzata, paro titolo in un film. Ta ta ta punta! Ta ta punta. I residuati poi, quelli che non riescono a passare per lo sfiatatoio, quelli che solidificano, quelli che assumono ancora un'altra forma, con Mocchium, la notte di San Giovanni, pare che poi vengono dati ai vescovati regionali, i quali attraverso encicliche, bolle, delitte canoniche, e vanno a mettere a rendicata comba. Ed è qua che sono interessata io, qua, a questo aspetto chimico e intrullifico della cosa. Se si riuscisse ad avere, che so, una capuzzella, una schegge braccia, una scapulella, chi lo sa, apriesse no, vuola no, io non ci credo ai talismani, talismano so già io stessa per me stessa, non è per me, è per chi sti qua, per vive e per morto, tengono sempre fame, sete, genio, non si saziano mai. Ma chi è il scema carita che morendo non si campi più? Ma perché passando sa mano va a fronte, si cancellano i pensieri? E io in mezzo a loro, par Salomè, a ballo per Erode, par Gabro Battista, e non basta che la già governare, ricettano, oh, e ha già cantato, già parlato, già fa muro, io non già faccio più, è una notte, mille e una notte che mi allontana, per non ne sentì, non quadrano quei giorni infiniti che la già supportà, e chi sta di capo, chi sta di qua, il ventre tumultuoso, degno corollario del tutto, prima e dopo, qua luce con scuro, sempre a mezzo, zitto, stava zitto, buono, bene ha fatto la nobildonna, ha fatto proprio buono, a una parte sono da cominciare, a sfrunà, alla parte qualunque, tanto sono tutti uguali, tutti inesorabilmente colmi ancora di spirito, dentro e fuori la materia. Basterò, su me, lascia, su me. Se scende, arava stai qua? Malacqua, malacqua. Non secala, era un passo che nessuno. E così continuo, all'infinita, fino a che io, pietosa, non ce l'aveva corta. Questo strazio. Ma sono agliera. Che nottata brillante lama. E nuvola. E su me ne rifabbrica. E io ci vado a mezzo. Io ci vado a mezzo. Vaga. Vaga e cammina. Ma solo Dio conosce la destinazione. E io sono soltanto una lettera. Viva. Filata viva. Rindasti buca. Pare un fantasma, tanto so bella, lontana, senza sguardo. Si fanno uno spignello all'aria della castella. Ah, io non mi avvicino, no. Io mi sento sporco, con tutta questa roba che ho all'occhio, che ho bocca tanto, con tutto questo fiore che mi peso, ricchini, cimaragli, braccialetti. Ora sta con la mano non è larga, ma non è meglio in tua priatoria. Ma che non ne sono queste cose, che le no. Che sono i figli della regina. E che la cammina qua per mirlo. Sono un'ambula svagata. E tutta la notte mi metto l'acqua in capo. Lo vuoi capire o no? Che sono so bello, so carolino. Le raga che borboni, altrove vai a fare tali spargizie, questi fatienti, questi animali che avevano con te. Ma voi vedete questa corda che è ridotta, carte mutante, usarelle plastiche. Ma vas passate, si femmina, si uomo, si vecchio, si guaglione. Ma quando mai si è visto questa scansione, questo ludibrio? Angelle, angelle, se ben mie, correte orsù. Ecco un rare dell'astro, un movimento. E i rir, una mano con la bocca, i regascchiotti, senza educazione. Ma tu ora l'hai fatta. I soldi l'hai messi in cassetta, si sa mai. Sti pazzi vengono a cavarmi in giro. La camera, la camera. Ah, camera, basta, tu si può fare, io faccio l'aria, da che la prego. Ma no, sono malati, voglio la fantasia, voglio prendere e scendere i sali perché li scuola. Ma con li scuola, con pari e non mi stati di senza, addormentato in terra. E la sfara un minuto. Ostia, giorno, povera vecchio. Non è cosa, non è su pignoli e tatto. E poi capi, ma fanno prendere le pupa. Amore, non è chiosa né ammuina. Ma certo, ma certo. Mica è pa' amore che tu mi hai chiamato. È un modo come nato per passare la nottata. Gescia, finalmente, che si pone l'occhio in tuo scuro. Ma vira che stanotte, senza rughe, quant'anna te brisa, a quanta piede rotta ti rannanza. E rire, sbadiglia, mi sei poveri e balletto, quei francia. E fazzoletto consumato, e morta a pisambietto. In de cammea. Ah, notte, notte. Ruffiana giapponese mezza luna senza Dio. Notte, notte. Chi si? Sì? In ospedale bambina. Non dormi dare sotto il rap russo. E l'uomo? L'uomo. Che la rimane l'uomo. La maschera e paura, è sangue, sangue, sangue. Pazzandella che l'anima attorno, pazzandella sì, qui ghirlanda. Ah, come si stizza l'anima che non trasa in tuo conto, come si stizza, come. E non canta. La rapa, bocca, sì, la rapa per la rapi, ma niente esce. È solo un boccheggiare muto, una smorfia di pesce. Ma reda quella che non si sente, ci pazzi sempre uno strillo, una look. Mani, chi è voi? Pieri, chi è voi? Stantaniele, chi è voi? Cervelli, chi è voi? E in coppa, all'incanto, all'asta. Vendesi, vendesi, vendesi, vendesi, vendesi. Ma quando scoppio sto rilorcio? Quando? È veloce l'allora in bancone. E dico, noi è solo uno struzzino. E allora cammina. E allora cammina. E in coppia passa. Sono stato nella lanterna. A casa sto da luna. E là sono stato a stella. E poi per tutta parte, un mare rosso, rosso, tanto rosso, apro l'occhio, si stanca nei guardare. E vira, vira, vira andare che bella Alice, che bella Alice. E non mi porta a casa. A casa? Quale? Come? A tu? Cane? Unicoli? Fugne? Sotterranei? Non ha mai tenuto manca una bandiera. Regista Carlo Cerciello sullo spettacolo Scanna Surice di Enzo Moscato, regia Carlo Cerciello con Imma Villa, al Teatro Vascello a Roma dal 20 al 25 ottobre 2020. Ben ritrovato Carlo Cerciello! Ciao, ciao Federico, ciao! Ciao! Carlo Cerciello che cura la regia di Scanna Surice, spettacolo di Enzo Moscato con una grande Imma Villa. Carlo, lo presentiamo in breve? Scanna Surice è il primo testo di Enzo Moscato e segnò l'irruzione di Enzo Moscato nella drammaturgia italiana e napoletana, ovviamente. Ci indicò un altro sguardo al teatro, uno sguardo oltre quello che vediamo e soprattutto per quanto riguarda la napoletanità, l'essere napoletani, indica uno sguardo meno oleografico e anzi che scandaglia le faglie dolorose della diversità, E Scannasudus è proprio questa, è uno dei femminelli che vivono nei quartieri spagnoli, ma è come tutti i femminelli di Ezio Moscato, non è importante la peculiarità dell'ambiguità sessuale, ma è più che altro l'universale senso di incompletezza e di mancata catarsi, di un cambiamento che non può avvenire. Scannasudus vive in una sorta di stamberga in mezzo ai topi. I topi sono i napoletani in realtà. E Scannasudus è un po' Napoli. Si parla della casa. La casa è la precarietà, il senso di precarietà è non solo quello che noi troviamo durante il terremoto, il testo si riferisce proprio a questo, no? Il terremoto del 1980. E dunque non indica solo la precarietà fisica e la mancanza della casa, insomma, ma è proprio Napoli, Napoli come è vissuta dai napoletani, che non la sentono mai completamente propria e né stabile. C'è sempre un rapporto di precarietà. Sentono il quartiere ma non sentono la città. Quindi c'è questo rapporto di amore ed odio tra Scannasudus e i napoletani, e svolge tutto Scannasudus il tema dell'essere sempre in bilico, no? Tra luce e ombra, tra vita e morte, questo senso infinito di instabilità, perché viviamo sempre in un eterno presente. Infatti il passato ormai è oleografia, il futuro non si vede mai, è come il sole che è in alto nei vicoli, c'è l'aspirazione verso l'alto e verso il sole, ma non lo vedi mai, è una sorta di sopravvivenza eterna come i topi al veleno, e a un certo punto dice chi son garint, son gafor, non mor, ma nemmeno camp come prima. Dunque, come si vede, forse un'analisi di quello che noi non vogliamo vedere di noi stessi, più che di quello che vediamo. Ecco, questo è Scannasudus, ma poi ovviamente svolge la fabulazione, ci sono vari momenti, tutti che riescono a superare quella che potrebbe essere la difficoltà di una lingua ovviamente barocca, piena di anche certe volte di suoni, suono onomatopeico, come è proprio la lingua napoletana, insomma. Ma la fabulazione del personaggio, questa sorta di un po' tutto, no? Un po' è Napoli stessa, un po' è questo personaggio simpatico ma anche scorbutico, ma noi lo seguiamo, ci affasciniamo. E un po' fu la sintesi, devo dire che questo primo testo di Enzo indicò proprio la strada che poi lui avrebbe seguito ampiamente, verso più che una narrazione lineare, ma invece molto immaginifica, molto visionaria, ecco. Carlo, lo spettacolo sta girando e sta avendo una grande fortuna. Ma è partito ormai, credo sono 3 anni che giriamo. Sì. Siamo stati all'estero, siamo stati a Lugano, siamo stati a Mosca. Questa è la bellezza, è la cosa del teatro, quando ti sorprende oltre la parola, perché c'è qualcosa che va molto, molto oltre quello che viene detto, che quello che vedi, e supera anche le barriere, perché pur essendo così parlato, diciamo, ecco, supera le barriere della difficoltà della comprensione della lingua. Sì. Cioè, questa è stata una scommessa che poi, sai, insomma, in teatro non hai mai la sfera di cristallo, non sai mai come va a finire, questa è un'alchimia vincente, perché sono tanti gli ingredienti veramente eccellenti, non solo il testo, ma una schiera di collaboratori pazzeschi, con Imma che è straordinaria, e il motivo che ti dicevo prima, che i femminelli non sono legati all'idea del femminile o del maschile, e questo mi ha consentito di farlo interpretare a un'attrice come Imma, che insomma, questo è veramente straordinario. In chiusura, Carlo, ci lasci tutti i riferimenti del Teatro Elicantropo, ma anche di Scannasudus in particolare? teatroelicantropo.com. Scannasudus lo trovate, abbiamo una pagina Facebook. Scannasudus di Enzo Moscato con Imma Villa, regia di Carlo Cerciello, che salutiamo, ringraziamo. Carlo, a presto, un abbraccio. Super grazie sempre a voi, tante tante belle cose. Ciao Carlo, ciao. Ciao, grazie. Ciao Federico, ciao. Il regista Carlo Cerciello sullo spettacolo Scannasudus. di Enzo Moscato, regia Carlo Cerciello con Imma Villa, al Teatro Vascello a Roma dal 20 al 25 ottobre 2020. L'agenda della settimana teatrale. Con Gaia Benassi per presentare Curiosità letterarie del mercoledì. In scena al Teatro Vascello dal 14 ottobre al 16 dicembre 2020. Ben trovata. Ciao, buongiorno. Cos'è questo appuntamento? Una cosa che abbiamo fortemente voluto con Emanuela Kusterman, che ovviamente cura questa rassegna, diciamo, chiamiamola così, con Sara Bortorelli, che è l'altra collega con cui mi alternerò per leggere, vuole diventare un appuntamento carino al Teatro Vascello il mercoledì per godere di alcune curiosità appunto letterarie, intanto che si sorseggia magari un bicchiere di vino o un tè caldo quando la stagione lo richiederà. Come era partita l'idea? La volontà comunque intanto di non cedere a questa paura del Covid che ci vuole tutti distanti, tutti rintanati nelle nostre case, ma continuare a tenere vivi i nostri teatri, a fare compagnia agli spettatori, a continuare a fare cultura anche in un periodo così difficile, ovviamente sempre nel rispetto, no, di tutte le norme che tutti quanti conosciamo, quindi con distanza, mascherine. Quindi l'idea è data questa, con la necessità comunque di continuare a esserci sul territorio, a esserci per chi ha voglia ancora di godere, insomma, di cose belle come la grande letteratura. Quindi è nato inizialmente con questo. Era una cosa che con Manuela avevamo già sperimentato con successo anni fa. Facevamo lì, era un giovedì pomeriggio con tè, pasticcini, in cui io appunto selezionavo racconti di vari autori, sempre con la supervisione di Manuela. Era andata molto bene, per cui Manuela ha detto: ma perché non riproponiamo questa cosa anche quest'anno? E quindi io e Sara abbiamo accolto, diciamo, l'invito di Manuela per questi pomeriggi letterari. Tutto qua. La scelta dove si è indirizzata per quanto riguarda autori ed autrici? La scelta è varia e variabile, nel senso che intanto stiamo veramente tentando magari di andare a spigolare qualcosa che sia meno noto, non dico a livello di autori, perché sono tutti autori di grandissimo richiamo, da Ball a Wilcock a La Blixen e King anche, vogliamo fare magari un pomeriggio così un po' di tensione, quindi grandi autori, però cercheremo magari di andare a raccontare, a scegliere, magari, non ti dico stralci, perché in realtà stiamo puntando più su racconti brevi, su poesie, su qualcosa che abbia in sé per sé un inizio e una fine. Non vogliamo fare stralci, capito, da romanzi, così, qualcosa che proprio regali allo spettatore un'esperienza narrativa che si completi nell'arco di quella mezz'ora, 40 minuti in cui leggeremo. Quindi le proposte sono fatte da Manuela, ma altrettanto da me e da Sara, che ci stiamo comunque in questo periodo leggendo un po' di tutto, no? Proprio andando anche a curiosare, non ti nascondo, anche nei mercatini dell'usato, capito? Andare a cercare quel volume che rimane dietro in seconda fila, che qualcuno ha abbandonato là. Stiamo facendo una ricerca a tutto tondo, non abbiamo limiti né di epoca né di, non so, letterature, capito, di qualche nazionalità piuttosto che di un'altra. Vorremmo un po' spaziare. Ci alterneremo, io e Sara, comincio io, 14 di ottobre comincerò io e poi a mercoledì alterni saremo io e Sara, e ci sarà sempre la presenza anche di Manuela, faremo una piccola introduzione giusto per inquadrare l'autore, ovviamente, poi faremo questa lettura mentre la gente tranquillamente può appunto sorseggiare qualcosa o anche no. Vediamo, se saremo molto brave forse non sorseggeranno niente. Ed è prevista anche una sorta di interazione con il pubblico? Durante la lettura no, però è ovvio che poi questo è proprio auspicabile, continuare a creare fermento e relazioni e stimolare la curiosità di chi ti ascolta, magari con domande ma anche con richieste. Un'idea che abbiamo è quella, magari se si creerà un pubblico di affezionati, magari di chiedere da un mercoledì all'altro se c'è un autore che può essere gradito, capito, per un altro mercoledì letterario, quindi andare anche in quella direzione. Certo, ci mancherebbe, anzi sarebbe veramente molto bello se nascesse questa interazione. Per sapere un po' prima delle letture, sarà presentato sul sito internet del Teatro Vascello quello che aspetterà gli... No, questo è a sorpresa. È a sorpresa. Questo è una sorpresa, sì. Questo sarà a sorpresa, ad esempio affronterò Benny, perché è un mio grande amore, io sono emiliana e allora ho proposto a Manuela di aprire con Benny, che secondo me insomma è sempre molto molto piacevole da ascoltare, anche come attrice, come interprete, da affrontare nella lettura a voce alta, ti offre tanti spunti, è ironico e divertente, è vario nelle sue proposte sia tematiche, poi crea dei giochi di parole molto belli. Curiosità letterarie del mercoledì in scena al Teatro Vascello dal 14 ottobre al 16 dicembre 2020. Gaia Benassi e Sara Borsarelli per la cura di Manuela Kusterman. Un saluto e un ringraziamento a Gaia Benassi. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, grazie, un abbraccio a te, a prestissimo. Con Massimo Ferri, uno dei curatori della quinta edizione del Festival dello Spettatore ad Arezzo dal 22 al 25 ottobre 2020. Massimo, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Spieghiamo cos'è a chi ci ascolta il Festival dello Spettatore. È una cosa che ci siamo inventati appunto 5 anni fa, perché volevamo mettere al centro dell'attenzione il ruolo, la figura appunto dello spettatore rispetto al contesto dello spettacolo dal vivo. Quindi il Festival dello Spettatore è un insieme di attività e di iniziative che contengono ovviamente anche spettacoli, perché se non ci sono gli spettacoli non ci sono gli spettatori, ma anche occasioni di approfondimento, giornate di studio, incontri appunto a cui partecipano spettatori, operatori, artisti, amministratori, insomma 4 giorni in cui tutti i soggetti che sono coinvolti nell'attività dello spettacolo si ritrovano ad Arezzo. Rispetto all'edizione di quest'anno, che ovviamente avviene dopo, mentre dico dopo, ho anche un brivido, nel senso, spero dopo una fase di chiusura totale, di lockdown, in cui varie attività dello spettacolo dal vivo stanno in qualche modo ripartendo, e però il titolo di quest'anno è Lo spettatore digitale, perché il fulcro dei focus dell'edizione di quest'anno è quello delle varie esperienze. Ci domandiamo se quello che è nato un po' per esigenza durante il lockdown da parte degli artisti, delle compagnie, di promuovere, programmare iniziative che nascono con un pensiero teatrale, con una poetica teatrale, ma che utilizzano il mezzo digitale, se possiamo ipotizzare che sia nato un nuovo linguaggio, che anche al termine del lockdown, quando si torna in sala, comunque queste sperimentazioni alla fine hanno dato vita forse ad una nuova forma espressiva. E quindi molta parte del programma di quest'anno è dedicata a questa cosa particolare, che sembra una contraddizione in termini di teatro digitale, ma che invece riteniamo che sia molto stimolante, ecco, come tematica. A questo proposito, come si articoleranno questi 4 giorni? Ci sarà un'alternanza appunto tra spettacoli e incontri. Il primo che segnalo è uno spettacolo molto particolare di Daniele Bartolini, un spettacolo che ha presentato solo a Venezia, alla Biennale Teatro di Venezia, che ci sarà tutti i giorni, dal 22 al 25, uno spettacolo che dura 25 minuti e che sarà fatto per un solo spettatore alla volta. Lo spettacolo si svolge in un cinema completamente vuoto e sarà in parte dal vivo con un'unica attrice, in parte con l'utilizzo di un visore della realtà virtuale. Quindi questo intreccio appunto tra mezzo digitale e live. Poi il festival contiene anche degli spettacoli rivolti al mondo della scuola, c'è il debutto di Oz, che è uno spettacolo di streaming, di live streaming per le scuole elementari, quindi ci sarà un collegamento, alcune classiche insomma sono organizzate, vedranno questo debutto della compagnia Cantestrasse di questo spettacolo ispirato al Mago di Oz. Un altro spettacolo per la scuola invece prevede anche questo l'utilizzo del visore di realtà virtuale e dello spettacolo dal vivo con il videomapping, quindi anche qui un intreccio di linguaggi. con il mezzo della compagnia genovese del tramo, che è ispirato al Visconte dimezzato di Calvino. Il mezzo, il percorso per cui genovese del tramo sono arrivati al mezzo è perché alcune compagnie, alcune residenze toscane hanno fatto un bando che si chiama Max Abitati tramite il Teatro Ragazzi. La compagnia genovese del tramo è stata vincitrice di questo bando. Il premio appunto erano le economie e i mezzi necessari per arrivare alla produzione di uno spettacolo di teatro digitale che punta appunto al Festival dello Spettatore e che poi sarà anche rappresentato non solo per le scuole ma per tutto il pubblico sabato sera, quindi il 24, con una doppia replica, perché evidentemente le capienze dei teatri in cui si svolge il festival sono molto ridotte, quindi alcuni spettacoli saranno presentati doppia replica per permettere una partecipazione migliore da parte del pubblico. E gli altri spettacoli in programma sono un debutto della compagnia Costa Palmizzi, esercizi di fantastica, quindi diciamo l'ispirazione è Rodari, il centenario di Dani Rodari. Questo sarà al Teatro Petrarca il venerdì 23 alle ore 18. Un altro spettacolo che prevede la realtà virtuale e sarà però il teatro è sempre venerdì alle ore 21, mentre è stata partita era alle ore 18. La mia battaglia con Elio Germano, lo spettacolo è tutto visto con il visore della realtà virtuale, però poi alla fine c'è l'incontro con Elio Germano. Questo, che la verità è uno spettacolo che era già previsto con la realtà virtuale già da un paio d'anni, insomma non è una conseguenza del Covid, era già pensato così. Giovedì, giorno prima, a Cinema Eden c'è un film, invece, anche questo prevede la presenza dell'autore in sala. Di mestiere faccio il paesologo, che è un documentario di Andrea D'Ambrosio sullo scrittore Franco Arminio. Saranno presenti in sala sia D'Ambrosio che Arminio. Questo è giovedì alle 21. Il sabato abbiamo una doppia replica dello spettacolo Il Mezzo della compagnia genovese del tramo e la domenica abbiamo due spettacoli, al pomeriggio uno spettacolo per bambini e famiglie, opera minima, della compagnia Cabagnato, che è lo spettacolo degli spettacoli finalisti della selezione in box verde e che facciamo in collaborazione con un altro festival che si svolge da Rete, che è stato all'infanzia, che si intitola Festival Meno Alti del Lucine. E poi si chiude con la domenica sera a Teatro Petrarca, quindi con una capienza un po' più consistente, lo spettacolo Ballarini di Emma Dante. Quindi appunto un intreccio tra spettacoli dal vivo, spettacoli in sala ma con l'uso di linguaggi digitali o spettacoli completamente in streaming, insomma ecco un intreccio. Questo per quello che riguarda gli spettacoli, poi vorrei citare quello che sono i due momenti cruciali di ogni anno del festival, uno che è la reunion, la grande reunion degli spettatori d'Italia, quest'anno partecipano una ventina di gruppi di spettatori, più o meno 10 in presenza ad Arezzo, sempre presso il Teatro Pietraretino, e altrettanti in streaming, ma non in streaming da casa propria, perché abbiamo voluto far sì che anche online i collegamenti streaming fossero comunque trasmessi da teatri di riferimento di questi gruppi di spettatori. Quindi sono una ventina di gruppi di spettatori da tante regioni italiane, ovviamente dalla Toscana, ma anche dal Lazio, dall'Umbria, dalla Lombardia, da tante regioni dell'Emilia Romagna, gruppi di spettatori che si incontrano fisicamente o in modo virtuale per confrontarsi sulle dinamiche. Quest'anno ovviamente, evidentemente, su questa tematica della forma digitale, della non presenza. Ecco, dentro questa reunion saranno anche presentati due libri, il libro in dettaglio è Il segreto di Peter Brook e il libro di Anna Maria Monteverdi, Leggere uno spettacolo multimediale, appunto, con il nostro festival, sempre e tutto questo al Teatro Pietraretino. L'altro momento importante che ogni anno caratterizza il Festival dello Spettatore è la giornata di studi. Quest'anno appunto la giornata di studi ha per titolo Lo Spettatore Digitale e qui esperti, tecnici, artisti, operatori, studiosi si incontrano ad Arezzo per approfondire questa tematica del mezzo digitale che incontra le poetiche e le dinamiche dello spettacolo da incontro. Il convegno è diviso in due parti, tra venerdì pomeriggio e sabato mattina, e ovviamente sarà trasmesso in streaming, per cui quest'anno appunto data la capienza limitata comunque degli spazi dove faremo possibilità tutti gli incontri sia la riunione degli spettatori, sia la giornata di studi sullo spettatore digitale, sia un altro appuntamento che è quello delle residenze digitali. Quest'anno ci sono stati 3 progetti di sostegno alla produzione digitale, uno promosso dal centro di residenza della Toscana, Arbugna, Capotrave, Kilovat, uno delle nostre residenze che hanno promosso il Mando Box, e poi il Box che ha aperto una linea per il teatro digitale. Quindi ci saranno in questo caso 8 compagnie artistiche che si confrontano sul loro lavoro appunto di sperimentazione rispetto a questo nuovo linguaggio, a questa nuova possibilità. Sul sito festivaldellospettatore.it c'è il programma molto dettagliato e dunque può scaricarlo, e appunto i contenuti del festival saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme, su Facebook, insomma, della rete teatrale Avellina, oppure sulla piattaforma Sonar. Nell'ambito del festival sarà anche presentata la piattaforma Sonar, che si presenterà come un possibile luogo di incontro, appunto una piattaforma web per la fruizione del teatro digitale, sia on demand, sia in streaming, in live streaming. Ovviamente noi quando pensiamo al teatro digitale non pensiamo alla ripresa con la telecamera di uno spettacolo teatrale, evidentemente. Pensiamo a uno spettacolo che si fruisce attraverso un mezzo digitale, ma che è stato pensato per questo, quindi che è stato prodotto, un nuovo prodotto artistico che sta tra il teatro, il videogioco, il prodotto audiovisivo, insomma, ecco, e spesso avviene comunque dal vivo, o comunque in diretta, anche se trasmesso con un mezzo virtuale. Quinta edizione del Festival dello Spettatore ad Arezzo dal 22 al 25 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Massimo Ferri. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, viva il lupo, ciao. Con Simone Nebbia di Teatro e Critica per la settimana degli eventi culturali a Roma e non solo, dopo una lunga pausa, ben trovato e bentornato, Simone. Oh, per me è un grande, gradito ritorno, bellissimo tornare a fare quello che faccio ormai da tantissimi anni. Chissà che ci riserva questo nuovo corso del teatro a Roma, è un corso dettato chiaramente da un'agenda su cui possiamo determinare non tutto effettivamente, perché come sappiamo la condizione è molto particolare, ma non ci interessa, noi parliamo di teatro e soprattutto abbiamo voglia di andarci. Segnalo, come uscito dallo studio Agis delle ultime settimane, come dalla riapertura dei teatri ci sia stato un solo caso di Covid registrato a teatro in un numero di presenze molto molto ampio, quindi non va sottovalutato che andare a teatro fa bene e soprattutto non è sotto alcun rischio. Detto questo, io direi di andare direttamente a cercare cosa andare a vedere durante questa settimana. Intanto direi che possiamo andare subito alla Sala Umberto, che è riaperto già da un po', ma lo fa con un testo di Edoardo Erma, Maurizio Quarto, con Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi, una coppia particolarmente affiatata, che sarà in scena fino al 25 ottobre ancora con questo spettacolo che in qualche modo fa rivivere la Sala Umberto, una sorta di viaggio sul palco dove dovrebbe andare in scena Il gioco delle parti di Pirandello, ed è Maurizio, il regista dello spettacolo, che si aspettava un altro tecnico per il montaggio, ma si presenta questo Carmine che non sembra avere molto entusiasmo per il lavoro. Questo è il dialogo che inizia la relazione, insomma, nei due ruoli, che poi via via si andranno anche ad invertire, tra Gianluca Guidi, che è anche regista dello spettacolo, e Giampiero Ingrassia. Questo un Pirandello Pulp, viene così segnalato questo Maurizio Quarto, e andremo a vedere di che si tratta la Sala Umberto fino al 25 di ottobre. Continua poi anche il lavoro al Teatro Lo Spazio con la regia di Gianni De Feo, che è debuttato già e sarà sempre fino al 25 ottobre, prodotto da Florian Meda Teatro, Venere in pelliccia di David Eve, con Patrizia Bellucci e lo stesso Gianni De Feo, al Teatro Lo Spazio. Siamo tutti facili da spiegare, ma non da districare. E questo sottile confine tra realtà e finzione, che è nel romanzo di Il Gianni De Feo, trae una versione teatrale che appunto ci presenta in scena al teatro Lo Spazio, ripeto, fino al 25 di ottobre. Poi questa settimana è anche l'occasione per un festival ormai antico che trova casa al Teatro Palladium. Partirà questo sabato 24 ottobre la 22esima edizione di Flautissimo, dal nome La città e il desiderio, direzione artistica di Stefano Ciotti. Sarà nella sala del Teatro Palladium il 24 ottobre alle 18 alle 21, con esibizione di quattro importanti flautisti contemporanei. Il teatro arriverà appena il giorno successivo con l'ormai storico Amleto di Michele Sinisi, apre una rassegna che andrà avanti poi fino al 28 di novembre con vari appuntamenti di cui parleremo più avanti. Poi Lo Spazio Diamante presenta invece questa settimana 21 e 22 ottobre La ballata dei matti. La regia è quella di Lorenzo Gioielli, ma è lo spettacolo che è tratto dal Tenace soldatino di stagno di Hans Christian Andersen con una drammaturgia di Daniele Prato. Sono molti gli attori presenti in scena e andremo a vedere per ben due date, 21 e 22 ottobre, cosa ne hanno potuto trarre appunto con il corso di formazione dell'Accademia Staff Brancaccio che Lorenzo Gioielli dirige questa volta in scena. Nick Simon con A piedi nudi nel parco, la regia di Dario De Francesco, dal 23 al 25 ottobre al Teatro Flavio di Roma. Ne conosciamo una commedia teatrale che anche ha avuto la versione 4 anni dopo la sua scrittura nel 67 al cinema con Robert Redford e Jane Fonda. In questo caso sono molti di più gli attori che andranno a interpretare questa storia di due novelli sposi, uno lui serio e conformista, lei allegra ed entusiasta, che abitano un piccolo appartamento spoglio con un buco nel soffitto all'ultimo piano di un palazzo senza ascensore. Cosa accadrà in questa commedia, commedia comica e travolgente, che insomma già abbiamo visto tantissime volte? Questa è la versione di Dario De Francesco al Teatro Flavio dal 23 al 25 di ottobre. Per quanto riguarda il Teatro Basilica, questa settimana abbiamo Roberto Verlisca dal 22 al 25 ottobre con la cura e la regia di Antonio Calenda, sostenuto dal gruppo della Creta, e presenterà De Rerum Natura. Lucrezio, il grande poeta epico, filosofo Lucrezio, che si fa portavoce delle teorie epicuree dal primo secolo avanti Cristo, un'esposizione in versi di eccezionale potenza che Roberto Lisca, che ha anche tradotto egli stesso il testo, porterà sulla scena del Teatro Basilica dal 22 al 25 ottobre, da non sottovalutare questo appuntamento. Andiamo anche appunto al Teatro Mascello, che sarà la nostra scena dal 20 al 25 di ottobre, quindi da questa sera andrà a degustare Dalla Sudice di Enzo Moscato, regia di Carlo Cercello, e in scena ci sarà Imma Villa, un lavoro che appunto vedremo nella sala del Teatro Mascello fino al 25 ottobre, e ambientato dopo il terremoto del 1989, una sorta di discesa negli inferi di un personaggio dall'identità androgena che abita all'interno di una Stamberga fra gli elementi più arcani della napoletanità. Questo è molto importante, questo è uno spettacolo che mi norma da tantissimi anni e che mi fa piacere poter segnalare per l'ennesima volta. Centrale Treneste, questo fine settimana, 24 e 25 ottobre, in orari pomeridiani 16:30, per le stelle di sotto, anche il teatro per l'infanzia, per le nuove generazioni, si chiama, anzi in realtà, Un uomo chiamato Cucuzzolo. Questo è il testo della regia di Tiziana Lucattini, Le stelle di sotto, presentato a Ruota Libera Teatro, con in scena Alessandro Garramone e Fabio Traversa. Cucuzzolo è appunto un gnomo che vuole fare la vita dei suoi fratelli che lavorano in miniera, come da sempre fanno gnomi e nani. Quindi questo è quello che andremo a vedere, a me sembra piuttosto interessante, quasi mi sto per prenotare per andarlo a vedere. Mentre questo fine settimana, dal 23 ottobre, da venerdì, inizia alla Teatro Belli Trend, la nuova frontiera della scena britannica, che conta ormai la 19esima edizione, curata da Rodolfo Di Gianmarco. Subito in scena la cura e l'interpretazione di Walter Malotti per questo Wool di Davide Sheer, che andrà appunto a iniziare questo viaggio all'interno della drammaturgia anglofona. Si parla tanto di muri fisici e mentali, quello che separa Israele dalla Palestina è oggetto di discussione accesa e contraddittoria. Questo è il tema che presenterà appunto l'omonimo Wool, cioè il muro, scritto da questo drammaturgo, che appunto andrà a mettere sotto osservazione questa divisione del mondo attraverso un muro, attraverso una separazione netta e distinta. come quella tra culture diverse. Quindi 23 ottobre al Teatro Belli per questo Wurl. Ancora abbiamo da ricordare in fondo le due cose più forti di questa settimana, anzi tre: l'inizio della stagione condivisa tra il Teatro Biblioteca del Quarticciolo e il Teatro Studio 1. Voglio segnalare che si sta collaborando tra le due realtà di Talking a Fare del Quarticciolo, appunto il Teatro Quarticciolo e il Teatro Studio 1, per una stagione condivisa che si chiama In Movimento lungo l'Acquedotto, ed è, Federico, qualcosa che tutto sommato abbiamo già ricordato e di cui hai dato notizia. Per quanto riguarda invece il Teatro dei Servi, 22 ottobre fino all'8 novembre c'è un po' la Legre con Luci e Ombre della Ribalta, la regia è quella di Leonardo Buffaroni, quindi uno spettacolo che vedrà in scena anche Marco Zordan, Alessandro Risomma, Diego Vigeni, Yasser Mohamed, e andremo appunto in un ritmo vorticoso con tanti personaggi che si affacciano sulla scena portando la fragilità, la stranezza, le ambizioni degli attori e mettendo così in discussione il mondo del teatro. Questo è quello che verrà in scena al Teatro dei Servi per questa prossima settimana. Invece ci rimane da parlare di Nuova Europa Festival con un primo appuntamento di questa settimana, il 21 di ottobre al Mattatoio alle ore 19, il concorso internazionale di composizione musicale, insomma va a costruire una presentazione molto interessante con tra l'audiovisivo, la creatività sia musicale che appunto performativa e anche con qualche richiamo al cinema, con i tre finalisti di questa edizione che sono Diego Ratto, Paolo Di Rocco e Simone Castellan. Questo per quanto riguarda una delle proposte di Roma Europa, ma questa settimana avremo anche soprattutto dal venerdì 23 la danza che viene a presentarsi con soprattutto un paio di appuntamenti: Studio Ninja Guru con Shi e Luna Cenere con Twin, che va a presentarsi in due orari, nella data del 23, 17:20 per Studio Ninja Guru, mentre Twin di Luna Cenere sarà alle 19 e alle 22, entrambi gli appuntamenti al Mattatoio. Mentre appunto Studio Ninja Guru è il vincitore del premio Vivo d'Arte, il tratto di una donna attraverso una performance coreutica aumentata, una scrittura coreografica in dialogo con le tecnologie digitali, questo è ciò che viene presentato con Studio Ninja. Invece Luna Cenere, presentando Twin, presenta il suo nuovo lavoro nato dalla collaborazione appunto tra la coreografa Luna Cenere e il visual artist Gilles Dubroca, che indaga il rapporto tra natura e tecnologia, e questo lo vediamo in scena anche un po' da una foto che ci viene presentata, ed è nell'ambito anche questo del Festival Dancing Days, festival che andrà a presentare anche Masako Matsushita il giorno successivo, il 24, con Undress Moving Painting. Questo lavoro, ancora siamo nell'ambito della danza, in due orari, 17 e 19, appunto rimando al sito di Roma Europa Festival per andare a vedere bene bene gli orari. È un lavoro appunto che il coreografo e la coreografa italo-giapponese costruisce attorno a un dipinto in movimento, un lavoro di metamorfosi che vede il corpo femminile fondersi con il tessuto, reinventando le normali gestualità del nostro vestirci e svestirci. Questo per quanto riguarda Undress. E ancora Roma Europa Festival alle 21 al Mattatoio, Quefor Rock and Roll con Enzo Cosimi, e che replicherà anche domenica alle 19 e alle 21. Il grande coreografo Enzo Cosimi in queste due date presenterà dunque un progetto di performance assai specifico ideato ed inaugurato durante Roma Festival dello scorso anno, che si confronta con il mito di Oreste per dare vita ad un nuovo itinerario performativo, il gesto feroce del matricidio commesso dall'eroe greco e il perdono di Atena saranno cristallizzati in una nuova visione, distillato dall'energia creativa dei giovani performer e con una poetica rock e insieme romantica. Questo per quanto riguarda Enzo Cosimi. Ma ultimo appuntamento è cosa succede al Teatro di Roma, perché ci sono ben due appuntamenti. Uno, di uno se ne è parlato e se ne parla perché ha appena debuttato sabato Uomo senza meta di Arne Ligre, il drammaturgo norvegese che è stato diretto da Giacomo Bisordi alla sua prima regia al Teatro d'Argentina, sarà in scena fino al 25 di ottobre. Ed è un lavoro che sicuramente indaga il prezzo delle cose, il fatto che tutto si possa comprare, tutto sia in vendita, quanto resiste del familiare, quanto resiste del sentimentale, quanto resiste dell'emotività all'interno di un contesto in cui tutto è acquistabile o vendibile. Questo è il senso del lavoro di Arnelli, che è diretto da Giacomo Bisordi, con attori straordinari come Monica Pisendo, come Francesco Corella, come Silvia D'Amico e altri che andranno appunto a presentare questo lavoro, e fino al 25 ottobre, Teatro Argentina. Mentre da questa sera fino al 25 ottobre al Teatro di India vedremo di nuovo la Gaia Scienza, la rivolta degli oggetti, con il nuovo cast riallestito già nel 2019. La regia è quella sempre Giorgio Bardaglio Corsetti, Marco Solari, Alessandra Manci. Questo è uno spettacolo appunto tratto da Valentino Magliacoschi, è uno spettacolo storico, che è stato il primo spettacolo d'esordio del trio Corsetti Solari Manci, che dal 1976 trova nuova vita nella libertà artistica della controcultura degli anni 70 a Roma. Viene riallestito oggi e si presenta nuovamente per far vedere quello spazio utopico di creatività e circolazione del pensiero che ne aveva favorito la creazione. Questo è quello che andremo a vedere al Teatro India dal 20 al 25 di ottobre, e questo è davvero tutto. Ciao Simone, alla prossima! Ciao!